di campo si è impigliato fra le dita, e tante stelle, tante nelle notti chiare, e mille dune da scoprire. Ai Velázquez non t'avessi mai seguito, con te non si torna una volta sola indietro, in mezzo ai venti sempre genti da salvare. Sei morto mille volte senza mai morire. Un vecchio zingaro ungherese di te parlando mi giurò che c'eri prima di suo padre, prima del padre di suo padre. Più in là nel tempo non andò. I cerchi del tuo tronco sono ferite d'armi e di parole che mai nessuno vendicò. Ai Velázquez, com'è duro questo amore. Mi pesa la notte prima di ricominciare, e tante veglie come soglie di un mistero, per arrivare sempre più vicino al vero. Ai Velázquez, certe sere quanta voglia, fermare la vela e ritornare da mia moglie. E tu mi dici fatti scrivere normale, per te bisogna sempre scrivere e lottare. E la tempesta ci sorprese, 2 miglia dopo Capo Horn, se ne rideva delle offese. In mezzo al ponte si distese e fino all'alba mi cantò. Ragazze, terre, contadini, da sempre popoli e padroni, fu lì che tutto cominciò. Ai Velázquez, fino a quando inventeremo un nido di rose ai piedi dell'arcobaleno, e tante stelle, tante nelle notti chiare, per questo mondo da cambiare. Ai Velázquez, hai chitarra come spada, mantello di sabbia, orecchio mozzo, antica sfida, eterna attesa, corda tesa da spezzare, e tanta voglia di tornare.